quanto, infatti anche tu Luigi, serve per avere un minimo di protezione, però il fatto che uno non possa essere contagiato anche con il vaccino, questo non esiste, sia ben chiaro, non esiste nella maniera più assoluta, tanto più che si dovrà rifare, io penso, fra 9 mesi, perché uno a uno sembra che gli vada bene per 9 mesi questo vaccino, 270 giorni, poi manca di 2 anni in realtà. Comunque hanno fatto un casino del diavolo, perché hanno fatto troppa confusione nella mente della gente, per cui in Italia ancora ci sono 17 milioni di persone che non sono state vaccinate nemmeno con la prima dose, per cui vedano un po' loro cosa devono fare. Avanti, vabbè. No, non voglio creare polemiche, chiudo, non dico il mio padre, lasciamo perdere, dai. Io vi dico solo una cosa, preparatevi a ottobre a farvi dare nuovo la terza dose. Gianni, questo amico mio di Genova, gli ha fatto le 2 dosi e gli hanno scritto che probabilmente, sicuramente a 31 di dicembre deve presentarsi, non di dicembre, di ottobre, dovrà presentare per fare la terza dose. Ogni anno, ogni 6 mesi vi dovete fare la dose di questa sostanza sconosciuta che nessuno conosce e non sappiamo gli effetti collaterali. Provate a crederci voi a queste cose, contenti voi. Se sei contagiato non è detto che murimi, ricordatevi questo. Se tu ti prendi il Covid, il 95% della popolazione italiana che ha preso il Covid era asintomatico e nessuno è morto. Esistono le cure, trovami un giocatore, un politico, un personaggio, un pubblico che sia morto di Covid, che sia stato curato. Purtroppo ci sono stati dei morti, come tutte le influenze, come tutte le malattie, ma è arrivata una tragedia, ci hanno chiuso tutti un anno e mezzo, siamo chiusi, mascherine, guanti, marasussi, e tutta la gente muore tutti gli anni, muore comunque, ma ne sarà molta di più, che non è vero questo. Il vaccino non è cambiato niente, perché le restrizioni ci saranno ancora, e aspettate a ottobre che saremo di nuovo da capo. D'estate non ce n'è di virus perché muore, a ottobre di nuovo da capo, ti faranno di nuovo le restrizioni e siamo tornati a capo. La colpa sarà di quelli che non si hanno fatto il vaccino. Se tu sei fatto il vaccino devi essere immune, come logica, no, invece non è vero, è una bigliata per un fondo, ricordatevi delle mie parole. Così, vabbè, non è che sei immune, non te l'ha detto nessuno che sei immune, loro non l'hanno mai detto che uno che è vaccinato è immune, no, ti hanno sempre detto che sei protetto in parte, per cui potresti anche prendere il contagio, però non rischi più di tanto. Ecco come hanno sempre detto, questo lo dicono tutti i giorni, tutte le sere, immancabilmente, anzi tutti i giorni, anche dalla mattina iniziamo a parlare di queste cose. Per cui poi se uno non le vuole fare, sono problemi suoi, o meglio sono problemi suoi che lui nel contempo li sta trasferendo anche agli altri. Perché? Perché è una questione di rispetto, poi lì ognuno fa quello che crede, nessuno lo obbliga, perché non esiste legge che debba essere obbligato a farsi il vaccino, assolutamente no, però è anche una questione di rispetto. Tu che sei giovane, che stai in mezzo alla gente, potresti prendere, per dire, contagio, vai a casa e contagi i tuoi genitori, dico tu, per dire, che qualsiasi persona, o qualsiasi fratello, qualsiasi genitore, o qualsiasi amico anche che contatti, che sia a fianco con lui. Ecco, il discorso è sempre questo, è una questione di cosa, come si dice, di rispetto nei confronti tuo innanzitutto, ma se tu non ti vuoi proteggere sono affari tuoi, però tu devi avere rispetto per gli altri, perché se tu sarai contagiato non fai altro che trasmetterlo agli altri, ecco come la tua, Romè, però nessuno ti obbliga, per carità, no, questo no. Ciao Roger, dai, che così concludo il discorso con Giulio. Ciao, ben sentito, salutatelo un attimino, Roger. Ciao. Ciao dottore Eugenio, ci sentiamo, avanti giù. Ciao Roger, ci sentiamo. Riposati, vai, che si sente che sei stanco, avanti, vabbè. Allora adesso faccio un discorso breve, perché ne sono stanco di farlo alla gente. Allora, prima di tutto ognuno è libero di fare quello che vuoi. Siamo in democrazia, la Costituzione italiana dice che nessuno può obbligare un trattamento sanitario a nessuno, prima cosa. Adesso stanno cercando di renderlo obbligatorio, ma ci sarà la guerra mondiale, come sta succedendo in Francia, eccetera, eccetera. Prima di tutto non stiamo parlando di un vaccino. Il vaccino ti iniettano la malattia in forma ridotta e tu ti fai gli anticorpi per quella malattia. Questo si chiama vaccino. Quello che stanno iniettando alle persone, che viene chiamato vaccino, è un siero, una terapia di immunità. Cercano di darti degli anticorpi, di crearti degli anticorpi all'organismo. Tenete presente, questo virus non è stato isolato, che probabilmente si dice che è un prodotto umano, non è questo questione di altre cose, come hanno detto, di animali, eccetera, eccetera. Però lasciamo credere che sia una cosa naturale. Il virus si modifica continuamente, questo tipo di virus, ci sono addirittura, lo stanno dicendo anche loro, le varianti. E non è che io mi faccio un'iniezione di un prodotto che è attivo su quel tipo di virus di due anni fa, perché il coronavirus è del 2019. Adesso ci sono tutte le varianti, così mi devo fare ogni settimana per ogni variante che scopro, mi devo fare iniettare una sostanza di coso che ti modifica gli anticorpi della cosa, e non si sanno gli effetti collaterali a lungo termine, perché nessuno le sa, perché quando fai un test di un vaccino, stiamo parlando del vaccino, ci vogliono dai 20 ai 30 anni per avere i risultati dei tempi che verranno, per vedere se si formano, aumentano i casi di tumore, i casi di altre malattie, di qualunque altra cosa, che non sappiamo, di infertilità. E io mi inietto una sostanza di cui nessuno sa niente, non hanno isolato il virus, e io mi devo iniettare una sostanza sperimentale, perché non si è lo sperimentale. Prima queste prove le facevano sugli animali, adesso gli ambientalisti non vogliono più gli animalisti, anzi non gli ambientalisti, e me lo devo iniettare io, soprattutto la cosa più grave, non me adulto, iniettarlo a un giovane che è in età fertile, e non si sa cosa può succedere tra 2, 3, 4 o 10 anni, se si deve sposare, se avrà dei figli. Che poi se tu questo vaccino fosse veramente efficace, come dici tu Giulio, tu non devi avere paura di me che non mi ha fatto il vaccino, sono io che devo aver paura di te, di questa sostanza che ti hanno iniettato, e non si sa cosa c'è dentro, non confondiamo le cose. Ma non è così, io la penso in un certo modo, non è così, tu ripeto, sei padronissimo, ma te l'ho detto anch'io prima, che non sei obbligato, perché non esiste una legge, stavo preannunciato poc'anzi, nessuno ti sta obbligando a farti il vaccino, a meno che non decido di fare una legge adesso, va bene? Però al momento nessuno è obbligato, però deve considerare questo, che nel mondo ci sono stati 4 milioni e mezzo di morti, e prima morivano 3.000 persone, 4.000 persone al giorno morivano, in Italia, sto parlando di Italia, cioè tipo, non so, Bergamo, tanto per fare una città, la Lombardia, lo stesso, eccetera, eccetera. In Brasile addirittura ne vogliono 35.000 al giorno, non uno, 35.000 su 150.000 contagi, il discorso è questo, diciamo che il vaccino può essere anche una cosa che non sia molto, molto efficace, perché è stata inventata molto presto, d'accordo, tutto questo sono d'accordo con te, però al momento il vaccino ha frenato il numero di morti o robe, e questo è importantissimo, e uno si può anche ammalare, per carità, però ho la possibilità di uscirne tranquillo, guarito, poi, perché? Perché il vaccino ti sta aiutando, anche contro le varianti, poi se domani ci sarà anche un altro tipo di variante e quel tipo di vaccino non sarà buono, non ne faranno un altro, questo lo sappiamo benissimo, loro hanno previsto che questo vaccino dura 270 giorni, praticamente 9 mesi. Ogni mese 30 mesi, 30 giorni, 3 per 9, 27, 270 giorni, dicono così, poi se non dura così sarà di meno, non so, il fatto sta che al momento il vaccino sta dimostrando che in certo senso è anche un po' efficace, almeno per quanto riguarda le morti, perché non è possibile, prima si moriva tutti i santissimi giorni e col camion portavano via le bare, non con il carro funebre, con i camion pieni, i cassoni pieni di bare, tutti i santi giorni, vabbè. E queste non sono frottole, queste sono cose che fanno anche qui da noi in Italia, per cui bisogna stare molto ma molto attenti, poi ripeto, tu non le vuoi fare, ma nessuno ti sta obbligando, per carità, e nessuno ti sta criticando, io non è che ti sto criticando, ci mancherebbe altro, tu sei padronissimo di fare quello che vuoi, però io la penso in questo modo, per me, oltre ad avere il rispetto tu di te stesso, dovresti avere, secondo me, rispetto anche degli altri, perché non si sa mai, tu sarai contagiato, ti avvicini a un'altra persona e lo contagi lo stesso, non è che tu ti salvi. Scusa, non ho... Dai, Antu, scusa, riprenditi tu, Antu, dai, parla. No, sono io, no. E chi è allora? Qualcuno sotto. Allora Giulio, adesso ti dico solo una cosa, ti dico esattamente quello che hai detto tu, non è vero. Allora, Israele, facciamo l'esempio di Israele, è stato il paese al mondo con l'85% della popolazione contagiata, e in proporzione adesso ha più contagiati rispetto di qualunque altra parte del mondo. Inghilterra è stata il paese, Gran Bretagna, il paese in Europa con più vaccinati, e stava mettendo i casi a vista doppio, per cui stiamo dicendo solo fesserie. I vaccini l'anno scorso, a luglio, senza vaccini avevamo un tasso di mortalità e di contagiati inferiore a quest'anno con i vaccini. Lei a Zurigo hanno fatto un concerto di 20.000 persone, tutti vaccinati, e alcuni senza vaccino, però col test sierologico entro le 48 ore. Si sono stati trovati 1.000 persone contagiate, per cui il vaccino, dimenticatevi, non è una cura. Esistono le terapie, se ti prendi il Covid prima che ti aggravi, perché il problema ti aggravi, ci sono le cure, come hanno curato i calciatori, i politici, eccetera eccetera. Adesso, a riguardo delle bare, dei multi che ci sono stati, la maggior parte dei multi sono stati perché non conoscevano la malattia, prima cosa, non sono state fatte le autopsie, sono stati 15 giorni i cadaveri fermi dentro le camere mortuarie, a un certo punto hanno saturato, quando sono state tolte fuori dopo 15 giorni, hanno dovuto chiamare l'esercito perché non ce la facevano più a trasportarlo le agenzie funebri. Se c'hai 10 carri funebri e ne puoi portare 10, no? E ci sono 40 morti, è successo quello lì. Se avessero fatto le autopsie all'inizio, tutti quei morti che ci sono stati, e se ne parlerà tra qualche anno quando ci saranno le commissioni di controllo, cosa è successo, che hanno curato con l'ossigeno e quel tipo di malattia assolutamente sbagliato, hanno sbagliato le cure, adesso ti stanno curando. Io ho degli amici che hanno preso il Covid in cose molto gravi, che sono stati in terapia intensiva, si sono trascurati, hanno fatto il corso. Il problema è solo quello lì, stanno raccontando tante di quelle palle e la gente ci crede. Se tu ti fai il vaccino, ripeto, non è un vaccino, è una terapia sperimentale, sierologica, non c'entra niente col vaccino, perché io sono il primo, se mi dai un vaccino della malattia come il tetano, quando ti entrava un chiodo rugginoso nel piede, ti facevi l'antitetanica, a quel momento lì ti iniettavano la malattia del tetano in versione limitata, ridotta, e ti facevi gli anticorpi. L'antitetanica ti durava 3 anni, 5 anni, adesso non lo so. Questo non è un vaccino, stiamo parlando di una terapia sperimentale che nessuno sa gli effetti e le conseguenze. Sta di fatto che tutte le varianti che stanno succedendo, tu è inutile che mi dici diminuisce gli effetti, e in base a cosa lo dici? Perché c'è una controprova che ti dica quello. E qua chiudo il discorso perché non voglio fare polemiche. Avanti Antu. Secondo, questo è il mio parere, secondo me sì, che cosa c'è stata, c'è, però hanno esagerato anche tanto. Secondo me c'è gente che sta prendendo anche tangenti su questa roba qua, qua lo dico, ed è così. Sì, la cosa magari c'è, perché c'è, una cosa manna, l'ha nevato. Non dobbiamo credere a tutto quello che ci fanno vedere. Roba, hai ragione, cioè, un po' sì, la cosa c'è, perché c'è stata qualcosa, però abbiamo magna magna sotto a livello mondiale, che è una cosa che fa paura, cioè, l'hanno fatto una cosa più manna di chissà chi era, è la verità. Giulio, ti posso dire l'ultima cosa, bro? Dai, tanti io devo chiudere. No, intanto tu hai detto una cosa non vera, perché tu non hai mai sentito da nessuno che il vaccino sia una cura. No, non l'hai sentito. Questo l'hai detto tu poco fa. Dice che è convinto che è una cura. No, non è una cura. Chi è che ti ha detto che è una cura? Nessuno ti ha mai detto. Hanno messo la portata. Una parte del mondo che il vaccino sia una cura. È solamente una lentamente. Del virus, basta, niente di più. Poi, ad esempio, in Inghilterra, che erano riusciti ad arrivare quasi a zero, poi sono diventati impazziti tutti in una volta, già l'abbiamo visto anche nell'Europeo, nella partita dell'Europa, del campionato europeo, tutti quanti allo stadio, 68.000 persone, non uno, da tutte le parti del mondo, tutti quanti senza mascherina, perché loro hanno sempre detto che il vaccino è un aiuto, non hanno mai detto che sia la cura per far guarire la malattia, no, hanno sempre detto che è un aiuto per prevenire lei malattia in un certo, di un certo tipo, di, un, cioè, di una certa gravità. Per cui però devi sempre portare la mascherina, se poi la gente è incosciente, perché la gente è incosciente, perché se fossimo stati tutti quanti più intelligenti, non da adesso, ma da un anno e mezzo a questa parte, probabilmente non sarebbe più esistito veramente. Siccome la gente ha fatto lì, l'hanno fatto tutti gli stupidi, incominciando a fare gli assembramenti, incominciando a fare le discoteche, tutte queste cose qua, e allora il virus si è sviluppato. Però tu non hai mai sentito da nessun esperto che il virus sia una cura, no, è solamente un aiuto per prevenire il danno maggiore, e cioè la morte eventuale, tutto lì, non confondere. Adesso io ti dico l'ultima cosa, Giulio. Allora, prima di tutto non è il vaccino, te l'ho già ribadito, è una terapia sperimentale, quindi è una sostanza che agisce sull'RNA dell'organismo, vabbè, lo sapete, non c'è bisogno di spiegarli. La cosa strana è che questa cosa all'inizio, se doveva arrivare, io faccio una cosa veloce, così vi aprite forse un pochettino gli occhi, arrivata col camion dell'esercito a meno 80 gradi, dovevano conservarlo non so cosa, poi se arrivi con il frigo dei gelati che arriverà a 10 gradi, 15 gradi sotto zero, adesso ti fanno l'iniezione, quello va in moto, l'hai visto, in moto, si porta il vaccino e ti fa l'iniezione in strada, prima quella clamorosa. Poi parliamo di un'altra cosa, avere il virus del Covid non significa che devi morire, perché il tasso di mortalità, soprattutto nei ragazzi, è 0,000, una cosa infinitesima, è più difficile che ti cada una meteorite in testa, anzi è più facile che ti cada un meteorite in testa a seconda della mortalità. Parliamo dei giovani, prima cosa, se tu ti prendi il Covid non è detto che devi morire, c'è gente che l'ha preso e non ne sa neanche come lo posso aver preso io o tu o chiunque. La cosa più grave è che la gente non se ne rende conto, rendetevi conto prima di tutto l'economia, che però l'economia si può sistemare, tutti i problemi che hanno avuto i giovani, parliamo di ansia e di depressione, i casi di suicidio, lo sapete quanti suicidi sono stati a Sassari da gennaio a giugno? 35 suicidi, quelle cose ci dobbiamo preoccupare, i ragazzi che tentano di suicidarsi, i ragazzi che sono usciti di testa, se mi prendo una malattia probabilmente me la prendo, non è detto che me la prendo, io non posso iniettarmi una sostanza nel caso mi venga il mal di denti, ma che discorsi sono? Io se ho una malattia me la curo, esistono i sistemi per curarli, e qua chiudo il discorso, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, io la mia scelta l'ho già fatta. Avanti nuovo Giulio. Ok, vabbè, d'accordo Roberto, pensa come vuoi, sei uscito, intanto sei uscito fuori dal tema, non c'entrava niente il discorso dell'economia col fatto, stiamo parlando della malattia, cioè di questo qualcosa, cioè questo vaccino che può che sia una medicina. Ma questo non si sta trovando meglio rispetto a come era passato, per cui i morti non ci sono più come prima. Oggi ad esempio non c'è nessun morto qua per dietro, 60 contagi a cosa, ma davvero io non ho poco, sembra che qualcuno della famiglia lavora all'ospedale, sono a Roghero, chi è stato messo dalla porta? Non lo so. Quando c'era? Quando ti arrivate? Non c'era il vaccino. Un po' più forte di Giulio. Quasi come ti arriva? Tutti sono aperti a 9.25. E allora sappiamo che cosa è successo anche a Sassari, soprattutto nelle case di riposo degli anziani. Comunque, vabbè, ognuno, ripeto, la pensi come credi, e nessuno te lo impedisce di pensare come stai pensando tu. Fai come credi, nessuno ti può dire di no. Esiste una legge, cioè non esiste una legge che ti obbliga, per cui va bene lo stesso, no, non c'è problema. Poi, ognuno vive a modo suo. Avanti a tu. Io intanto vi saluto e poi chiudo, sono già le 9:25 e devo scendere per la cena. Avanti a tu, mi ascolto il finalino e dopo chiudo, vai. Capa, salutone Giulio, ci sentiamo alle prossime. Avanti, io... anche io sono stato, scusa Giulio, la discussione, dai, stiamo avendo dei pareri diversi, però ecco, purtroppo stanno mettendo una portante di nuovo, non si sa chi era, quando parlavi tu molto del discorso l'hanno, si è interrotto Giulio, dai, vi saluto tutti quanti, anche io vado a mangiare, ciao Giulio, ciao Antonio, eventuali qua amici su canale 10, ciao ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo Robè, ciao ciao. Ok, ciao Robè, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao.